Siamo in collegamento telefonico con Claudio Poli, regista del documentario Hitler contro Picasso e gli altri, che sarà in sala il 13 e 14 marzo. Claudio, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ce lo presenti questo lavoro? Sì, allora, Hitler contro Picasso e gli altri è appunto un film documentario lungometraggio di un'ora e mezza che racconta un tema secondo noi molto importante, anche relativamente ancora poco conosciuto, che è il tema del rapporto del regime nazista con l'arte. Questo in diversi aspetti. Un aspetto è, diciamo, la censura che il regime nazista ha operato nei confronti di quella che chiamava arte degenerata, che in realtà erano così bollati tanti dei più grandi, di quelli che noi consideriamo i più grandi artisti del Novecento, come Picasso, Kandinsky, Chagall, Monet, Van Gogh. E l'altro aspetto invece che viene raccontato dal film è la grande razzia, il grande furto di opere d'arte operato appunto dal regime nazista, che approfittando della loro politica antisemita hanno derubato, razziato delle intere collezioni di grandissimo valore, soprattutto da collezionisti e galleristi ebrei, naturalmente con la minaccia di finire nei campi. Sì. Senti Claudio, come ha avuto origine questo progetto? Questo progetto ha avuto origine da un'idea, da un soggetto di Gnocchi, di 3D Produzioni, che è la casa di produzione che ha prodotto il film insieme a Nexo Digital. È un po' tratto spunto dall'occasione dell'allestimento di queste quattro mostre che hanno avuto luogo nel 2017, esattamente a 70 anni dalla, no, scusate, da, a 80 anni dalla prima mostra di arte degenerata. Sono state allestite queste quattro mostre a Berna, Bonn, Parigi ed Deventer in Olanda, che appunto mettevano in mostra tanti di queste opere d'arte che erano state rubate dai nazisti e che poi ancora adesso pian piano stanno continuando a essere scoperte e si sta cercando di restituire ai legittimi proprietari ancora adesso, appunto dopo 80 anni. Quindi questo è stato un po' il pretesto per affrontare questa storia. Come hai deciso di strutturare il tuo lavoro? Allora, il documentario è strutturato, beh, innanzitutto c'è un narratore eccezionale che è Tony Servillo, che quando ha letto il soggetto e la sceneggiatura si è molto interessato a questo tema e ha accettato di partecipare con grande entusiasmo, e questo ci ha fatto molto piacere. Diciamo, il documentario ha delle parti più appunto di racconto storico anche parti di quasi ricerca, di investigazione, nel senso che per fare questo film abbiamo le autrici di Gnocchi, Sabina Fedeli e Arianna Marelli, hanno fatto un sacco di ricerche negli archivi, leggendo i documenti originali dell'epoca per ricostruire la storia. E queste parti più appunto di racconto storico si alternano con ad esempio, i racconti degli eredi, dei discendenti, delle famiglie ebree che sono state derubate. Queste sono invece parti più, diciamo, emotive e che fanno capire anche il lato più umano e insomma, le storie familiari delle persone che sono state coinvolte in queste vicende. Stavo pensando, in base anche alle tue parole, che la razzia delle opere d'arte, di ciò che è bello, è tipica di tutti i paesi che invadono altri territori. E la censura, che sia religiosa, che sia politica, che sia di altri tipi, è propria di appunto sempre di tanti regimi totalitari. Sicuramente, appunto, questi temi sono un po' il fulcro del film, che racconta appunto come questi poteri conquistatori e totalitari cerchino sempre di censurare fermare e di far sparire non solo fisicamente i propri oppositori, ma anche Sì. la cultura, l'arte e la produzione intellettuale che va contro i propri principi. In questo caso è stato il nazismo con l'ideologia, la propria ideologia, ha cercato di cancellare tutto ciò che era contrario, bollandolo come arte degenerata e facendo sparire tutte le bellezze e le ricchezze di queste delle più importanti famiglie ebree. Claudio, in questa ricerca cosa ti ha sorpreso di più? Beh, la cosa più sorprendente che esce da questa ricerca e da questo documentario è che queste vicende, nonostante siano passati 70 anni dalla fine della guerra, sono ancora ben lontane dall'essere risolte. Infatti, una delle storie più impressionanti che esce dal documentario è la storia di Gurlitt, che Gurlitt era questo anziano signore che viveva a Monaco e solo nel 2009 sono state scoperte nel suo appartamento centinaia di opere d'arte che erano sparite dai tempi della guerra, che erano le opere d'arte che suo padre era, essendo un mercante d'arte che lavorava per il Tbilisi, aveva fatto sparire. E ancora tantissime delle famiglie che si sono viste privare di opere d'arte durante la guerra, ancora adesso stanno lottando per riuscire ad avere indietro quello che è loro. E fa abbastanza impressione pensare che dopo tutti questi anni, insomma, non si siano ancora risolte Ecco, che fine hanno fatto quelle opere d'arte? Sono di privati o proprietà dello Stato? Come sono le questioni? appunto, la questione è molto complessa perché si mischia un po' tutto, nel senso alcune opere sono totalmente sparite, altre sono finite in musei pubblici in giro per il mondo altre sono in collezioni private, altre chissà dove sono, nel senso appunto come sono state scoperte queste centinaia di opere nella casa di un pensionato di Monaco, chissà quante altre Certo. possono essere nascoste da qualche parte. E quindi è molto difficile, ci sono anche intervistati nel film diverse persone che si occupano di dare assistenza a questi eredi che vogliono riavere quello che è loro, legittimamente loro. Ed è molto più complicato perché magari chi è i musei o i privati che sono entrati in possesso di queste opere le hanno fatto in buona fede, senza sapere che sono state trafugate da parte dei nazisti. Quindi è tutto molto complicato. Claudio, che tipo di uscita sarà in questi 2 giorni? Che tipo di uscita sarà? Beh, allora, Nexo Digital distribuisce il film, mi pare, in circa 300 sale in tutta Italia. E poi inizierà la distribuzione anche all'estero, in tantissimi paesi di tutto il mondo. E questo, quindi c'è una lista dei cinema italiani sul sito di Nexo Digital, e la distribuzione è veramente capillare, Nexo Digital fa veramente un lavoro fantastico in questo, quindi chiunque può trovare vicino a sé un cinema per vedere il film. Allora, ricordiamo il documentario Hitler contro Picasso e gli altri di Claudio Poli, in uscita in sala il 13 e 14 marzo. Claudio, io ti ringrazio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, arrivederci.